Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, era Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Qui a Salva Danaio, in questo periodo di crisi, ci troviamo spesso a dare solo brutte notizie. Quando c'è qualche piccola nota positiva, quindi ci fa particolarmente piacere sottolinearla. Non si può proprio definire a tutti gli effetti una buona notizia, però è un dato in controtendenza la lieve crescita dell'occupazione registrata a febbraio rispetto al mese precedente, quindi siamo al nostro martedì del lavoro, tanto per fare un punto più preciso della situazione. Un'altra nota positiva è il colore rosa di questa ripresa, dovuta in gran parte all'occupazione appunto femminile. Su base mensile, la percentuale delle donne lavoratrici è salita dallo 0,5%, 50.000 lavoratrici in più, mentre la componente maschile resta sostanzialmente ferma. Anche su base annua, l'occupazione femminile è salita dello 0,5% a fronte di una diminuzione del 2% per gli uomini. Partendo da questi dati, Salva Danaio dunque dedica una puntata all'occupazione femminile, individuando le motivazioni di questa crescita e gli ambiti in cui le donne sono più ricercate, approfondendo le esigenze e le problematiche più sentite dalle lavoratrici e anche il tema degli incentivi alle assunzioni in rosa che sono stati introdotti dall'ultima riforma del lavoro. Quando abbiamo segnalato questo tema sui social network ieri, abbiamo ricevuto risposte un po' contrastanti. Floriana su Twitter, per esempio, ci ha segnalato che lei nel mese di febbraio il lavoro l'ha perso, poi me lo sono reinventato, ha detto, aprendo una startup con suo marito. Lucia su Facebook ci ha fatto notare come forse ci sono più donne che lavorano perché aumentano i mariti che lo perdono e quindi, dice, bisogna rimboccarsi le maniche in due. Lei ne sa qualcosa, ci racconta. Quello che vogliamo fare oggi è anche raccogliere le vostre testimonianze, i racconti reali che vanno al di là dei dati numerici, quindi chiamateci all'800 24 00 24, oppure scriveteci al 349 238 6666, siete donna, avete trovato lavoro in quest'ultimo periodo, in quale settore? In caso contrario, in quali difficoltà e problematiche vi imbattete solitamente? Buongiorno e ben ritrovata da Alessandro Rotaporte, nostro consulente del lavoro, nostro amico che ci segue in questo cammino appunto dedicato a tutte le tematiche del lavoro che abbiamo intrapreso da qualche settimana. Ben ritrovato, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Per la prima parte della trasmissione ci farà compagnia Stefano Scabbio, presidente e amministratore delegato di Manpower Italia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Più tardi sentiremo Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, la Confederazione Italiana delle Libere Professioni, e poi vi proporrò anche un commento su questi dati da parte di Daniela Del Boca, docente di Economia Politica presso l'Università di Torino. Adesso però un punto della situazione sul tema di oggi, donne e lavoro. Osservare i dati sul mercato del lavoro in Italia non può certo fare molto bene all'umore. Il numero di disoccupati relativamente al mese di febbraio si attesta a 2.971.000 unità, in diminuzione sì dello 0,9% rispetto a gennaio, ma ancora in aumento su base annua, dove si registra una crescita del 15,6%. La disoccupazione giovanile è pari al 37,8%. E fa impressione anche il dato sui licenziamenti, che nel solo 2012 sono stati oltre 1 milione. Il dato è drammaticamente in crescita, del 13,9%, rispetto al 2011. Volendo trovare qualche nota positiva, ci sono appunto una crescita, seppur lieve, registrata nel secondo mese dell'anno, e il suo colore, rosa. L'aumento rispetto al mese di gennaio, infatti, è in gran parte dovuto all'occupazione femminile, che secondo l'Istat sale dello 0,5, percentuale corrispondente a 50.000 lavoratrici in più. Anche su base annua le donne lavoratrici aumentano dello 0,5%, a fronte di una diminuzione del 2% per gli uomini. Il dato diventa meno incoraggiante se si considera come in parte sia dovuto semplicemente alla permanenza a lavoro delle donne più adulte, dovuta all'allungamento della vita lavorativa. Senza dimenticare che il nostro paese si trova al terzultimo posto in Europa per tasso di occupazione femminile. L'Italia supera di poco Malta e Grecia, con un tasso che non arriva al 50%. ben lontano da quell'abbondante 70 che possono vantare i paesi scandinavi, la Germania e l'Austria. Non resta che sperare che questa piccola percentuale sia l'inizio di un vero cambiamento. Come ha detto la neopresidente della Camera, Laura Boldrini, in un'intervista al Sole 24 Ore, è importante rilanciare l'occupazione femminile, perché una donna che ha un proprio reddito è più libera, perché è altissima la percentuale di donne che cercano lavoro e perché, non dimentichiamolo, quando le donne lavorano, la produzione aumenta. E peraltro di questo aspetto sembrano esserne estremamente consapevoli le aziende, poi sentiremo su questi aspetti Stefano Scabbio di Manpower. Prima però dal commento di una donna, quello della neopresidente della Camera Laura Boldrini, al commento di un'altra donna ancora, Daniela Del Boca, docente di economia politica presso l'Università di Torino, economista del lavoro, sentiamo come ha commentato questi dati di febbraio. Prima cosa, questo aumento è un aumento che è evidente ma non è molto elevato, quindi non è sul piano della grandezza dei numeri, non è enorme, diciamo. L'occupazione femminile è stata ferma per anni in Italia, in tutte le classi di età, e in quest'ultimo periodo è aumentata seguendo un po' un trend di molti paesi che vedono durante i periodi di crisi un aumento, anche se non consistente o consistente a livelli diversi, dell'occupazione femminile, in concomitanza di un declino dell'occupazione maschile, che chiaramente è quello più direttamente colpito dalla crisi, perché prevalentemente nei settori più esposti alle crisi internazionali e alle crisi economiche, quindi il privato, le imprese e la manifattura, mentre le donne sono prevalentemente nei servizi e nel pubblico, quindi sono un pochino più protette e nel momento in cui c'è una crisi possono lavorare di più o addirittura andare a lavorare, come nel caso di quello che vediamo. Noi nelle nostre ricerche, che facciamo già da anni seguendo l'occupazione femminile, abbiamo riscontrato che appunto nei momenti di crisi ci sono un po' effetti diversi, cioè c'è un effetto, quello che diciamo di aumento occupazione femminile e di riduzione del genere occupazionale tra uomo e donna, che però diciamo non dura molto nel tempo, proprio perché corrisponde appunto a questo bisogno della famiglia spesso di compensare i redditi perduti, e questo effetto, che in economia si chiama il lavoratore aggiunto, si verifica solo nelle zone dove ci sono dei servizi, dove diciamo questo rientrare nel mercato del lavoro o entrare nel mercato del lavoro è favorito da una situazione favorevole dei servizi. 800 24 00 24, il numero verde se volete utilizzarlo per interagire con noi, commentare il tema di questa mattina: più donne al lavoro. Secondo i dati di febbraio, in un momento di grande difficoltà per il nostro paese, ci aggrappiamo disperatamente a tutte le buone notizie. Alessandro Taporta, che ne pensa? Beh, come è stato detto nella scheda, effettivamente il dato va letto con attenzione, perché comunque ci sono vari fattori che incidono su queste statistiche. Quello che possiamo dire a favore dell'occupazione, della ricollocazione delle donne, appunto, è, come è stato citato in precedenza, le agevolazioni introdotte dalla legge 92, quindi dalla riforma del mercato del lavoro, che si spera entrino in operatività piena velocemente, perché manca il decreto attuativo, e qui potrà essere questa misura potrà essere d'aiuto alle donne prive di impiego da almeno 6 mesi, poi ci sono diverse casistiche, per essere ricollocate in modo più agevole, perché è previsto uno sgravio della contribuzione INPS del 50% in capo ai datori di lavoro che effettueranno questo tipo di contratti. Quindi insomma un sistema di incentivazione esiste, ma non è ancora completamente operativo, e che potrebbe dare anche nuova linfa a queste cifre che abbiamo appena indicato, potrebbero essere anche più consistenti. Stefano Scabbio, presidente e amministratore delegato di Manpower, a parte il commento sul dato di febbraio, per la verità quello che ci ha raccontato gli amici di Manpower Italia è che una tendenza ad una maggior richiesta di presenza femminile in azienda, le società di intermediazione, diciamo, del lavoro la stanno registrando da un po' più di tempo, quindi non solo sono rilevanti le statistiche dell'Istat, Scabbio, ma anche appunto i risultati che vedete voi. Che cosa sta succedendo nel mercato del lavoro secondo il vostro osservatorio? Sì, si ricollega in parte a quello che è già stato detto precedentemente dai commenti che ho ascoltato. Indubbiamente in un periodo di forte congiuntura come sfavorevole come quella a cui stiamo assistendo, abbiamo in realtà il settore dei servizi in controtendenza, che assorbe normalmente, diciamo, figure femminili. E l'altro aspetto, e questo in termini occupazionali ovviamente, l'altro aspetto riguarda che le donne più giovani sono più istruite, anche questo è un dato importante. Se guardiamo la percentuale di donne diplomate è intorno al 43% rispetto al 40% degli uomini, e di quelle laureate è vicino al 16% rispetto soltanto al 10% degli uomini. Quindi in un momento in cui le aziende cercano personale di maggior valore e quindi con maggior istruzione, capite bene che la scelta alla fine va sulle quote rosa, e questo direi che è un segnale di tendenza generale. Ma non è solo un problema di maggiore istruzione, vero? Forse non anche le attitudini e la capacità contano. Adesso non voglio fare una trasmissione sulla questione del genere, per carità del cielo, ecco, volevamo solo analizzare i dati. Sì. No, arrivavo al punto giustamente che sta sottolineando, al fatto che comunque all'interno delle selezioni che noi normalmente quotidianamente facciamo, le donne, in termini di quelli che vengono chiamati soft skills, hanno delle attitudini nettamente superiori rispetto agli uomini, e parliamo di capacità di problem solving, di capacità comunicative. Magari mi aiuti a risolvere, a tradurre questi termini in inglese per i nostri ascoltatori, quindi maggior capacità di risolvere i problemi all'interno dell'azienda, detto in maniera... maggiore capacità di comunicazione, no? Maggiore sensibilità, voglio dire, in quelli che sono gli aspetti della comunicazione, no? E della negoziazione, che sono importantissimi. Questi sono parte dei principali soft skills che oggi sono estremamente importanti in un colloquio di selezione, e pesano molto di più, arrivano a pesare addirittura il 60% rispetto a quelle che sono le competenze tecniche. In quali settori c'è particolare vivacità, dottore Scabbio? Oggi settore finance, direzione amministrativa, tutta la parte relativa alla compliance e al legale, rischi, processi. Per l'area HR, per esempio, la parte gestione di le HR, cioè le risorse umane. Mi scusi che le faccio sempre questa traduzione simultanea. Sono abituato a sì, lo so che lei ha un profilo molto internazionale. Quindi parte relativa alla compensation e benefit, che riguarda sostanzialmente i piani incentivanti e la parte relativa al salario, lo sviluppo delle carriere delle persone, insomma. Queste sono le aree dove maggiormente noi selezioniamo profili femminili. Senta, le chiedo una cosa, perché c'è una sollecitazione che arriva da un ascoltatore al 349-238-6666 che mette in dubbio questa tendenza, nel senso che sostiene che questo aumento dell'occupazione femminile sia riconducibile anche al fatto che semplicemente possono essere pagate meno, è così? Guardi, tendenzialmente devo dire onestamente che c'è ancora questa tendenza nel nostro paese di discriminazione per quanto riguarda la figura femminile. È abbastanza vero, ed è maggiormente concentrata sicuramente in alcuni settori, anche se negli ultimi anni la forbice si è ridotta soprattutto nelle posizioni diciamo di vertice. E quindi spero che questo sviluppo e cambiamento culturale sia progressivo e continui, voglio dire, nella direzione che ci auspichiamo, perché non ci deve essere discriminazione tra uno stipendio di una donna rispetto a quello di un uomo. Però è vero quello che dice la persona che ha mandato questo messaggio. È purtroppo ancora abbastanza vero, ripeto, specialmente in alcuni settori. Quindi il fatto che la donna rappresenti in una cultura del lavoro vecchia ancora un rischio per tutto ciò che concerne, come sappiamo, la maternità e quant'altro, nel proprio salario si sconta ancora questo tipo di rischio, ed è la cultura ormai medievale. Direi, anche perché, guardi, per una come me che per esempio guarda con grande distacco a tutte le battaglie sulle leggi a proposito delle quote rose, in realtà poi qualche volta mi rendo conto che invece certe battaglie sono ancora necessarie. Esatto. Senta, l'ultima cosa, perché poi Stefano Scabbio deve lasciarci e poi ci concentreremo con gli altri ospiti nella seconda parte del programma, un suggerimento a tutte le donne in ascolto che stanno pensando di ricollocarsi in questo momento sul mercato del lavoro, nella piena consapevolezza delle difficoltà che il mercato del lavoro italiano vive in questo momento, come ci si deve ben presentare, appunto, a parte chiaramente superiamo il tema del curriculum, ammettendo che sia ben fatto, magari andiamo già al colloquio di lavoro, Scabbio. Il suggerimento principale direi che è quello di presentarsi con le proprie caratteristiche personologiche in maniera molto evidente, quindi esprimere in un colloquio quelle che sono le proprie attitudini al di là delle competenze tecniche, perché questo è un aspetto fondamentale, cercare di esaltarle e farle venire fuori nella maniera migliore. Questo aiuta il selezionatore a capire se quella persona incontra le esigenze specifiche proprio dal punto di vista delle sue caratteristiche personologiche di inserimento nell'ambiente lavorativo per cui è richiesto questo profilo. Grazie a Stefano Scabbio, presidente e amministratore delegato di Manpower, buona giornata. Abbiamo già la giornata. Grazie molte, la prima pausa, peraltro continuo a leggere anche molti messaggi, c'è chi in realtà addirittura trova persino il modo di contestare questo dato che abbiamo indicato, a noi sembrava positivo soffermare l'attenzione sul fatto che l'occupazione femminile sta aumentando, perché c'è chi dice di questo passo si faranno sempre meno figli, ma guardate, io direi che invece dovremmo guardarli in una maniera diversa, andiamo verso una società che ci permetta di conciliare sempre meglio la nostra vita professionale con quella personale, però direi che non è il tema di questa mattina. 800 24 00 24 per continuare a prenotare i vostri interventi, cominciamo a sentirvi tra pochissimo. Non me l'aspettavo. Marco Lombardo ultimamente si sta cimentando nella ricerca delle più colorate colonne sonore per le nostre trasmissioni. Parliamo di donne stamattina, il nostro martedì del lavoro. Ancora buona giornata da Deborah Rosciani e Salva Danaio. Parliamo e commentiamo questo dato che ci è piaciuto, lo abbiamo visto in febbraio, è aumentata leggermente l'occupazione femminile in uno scenario italiano che è ancora invece molto problematico, e chiaramente qua stamattina i commenti sono delle tenore più diverse, perché c'è chi guarda ovviamente positivamente a questa tendenza che speriamo sia duratura, anche se non ci crediamo molto, è ancora presto per dirlo. C'è chi invece dice, vi leggo il messaggio di Corrado da Como, io vedo solo licenziamenti e cassa integrazione, ci sono più donne assunte perché si adattano a stipendi più bassi, a 500-600 euro. In alta Lombardia di lavoro non ce n'è, non so di che paese parliate. Parliamo dell'Italia, Corrado. E comunque se l'Istat questa cosa ce l'ha detta, poi chiaramente le motivazioni saranno le più differenziate, ma in ogni caso noi stamattina abbiamo voluto commentarla appunto ed esaminarla nel dettaglio. Nel frattempo ci ha raggiunto il nostro ospite che aspettavamo, appunto Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, la Confederazione Italiana delle Libere Professioni, ma anche presidente di Cadi Prof, che è la cassa di previdenza sanitaria integrativa dei lavoratori degli studi professionali. Presidente Stella, buongiorno. Buongiorno. E grazie a lei per essere intervenuto, perché negli studi professionali c'è una larghissima componente femminile. Sì, praticamente noi riscontriamo che raggiunge quasi il 90%. Cioè, non larga, direi proprio una praticamente quasi totalitaria. Sì, esattamente. Diciamo che le ragioni probabilmente sono un po' storiche, nel senso che una volta forse c'era meno scolarizzazione femminile, per cui appena finita la scuola superiore è più facile l'accesso a uno studio professionale come primo impiego. Poi noi abbiamo cercato nel tempo di stabilizzare, di fidelizzare, diciamo, i lavoratori dipendenti all'interno di uno studio professionale e di mantenere la forza lavoro all'interno, e questo lo dimostrano anche le statistiche che testimoniano appunto che il 40% della media, 40 anni vuol dire la media all'interno di uno studio professionale di una dipendente, insomma, questo è la media di età. Presidente Stella, lei che ne pensa di questo dato di febbraio, prendendolo con le pinze, pure naturalmente manifestando tutta la massima prudenza possibile, possiamo ad essere ad una svolta, ad una inversione di tendenza, ad un trend che potrebbe essere duraturo per le donne al lavoro? Ma io auspico, intanto vedo positivo nonostante tutto, la situazione è sicuramente molto difficile, questo nel campo del lavoro. Noi peraltro Diciamo che in un certo senso abbiamo ancora stabilizzato, pur avendo riscontrato anche negli studi professionali una riduzione dei ricavi, abbiamo mantenuto la forza lavoro all'interno degli studi, tanto che la cassa integrazione ha fatto registrare un ricorso di 6.000 unità circa all'anno, quindi un dato ancora piuttosto basso rispetto all'industria e commercio che invece riscontrano dati molto più negativi. E anche diciamo un rapporto, noi abbiamo dati di assunzione, visto che poi c'è sempre quel famoso rapporto 90-10%, 90 donne, 10% maschi, nell'anno 2012 abbiamo ancora un trend positivo di assunzioni rispetto a un trend diciamo negativo, quindi nel settore degli studi professionali è ancora un settore che tiene botta, diciamo così, nel certo, campo. Tanto per far capire ai nostri ascoltatori, Presidente, quando parliamo di studi professionali parliamo di studi legali piuttosto che di studi di commercialista, qual è la rosa contemplata? Esatto. Noi, fra l'altro, nel contratto collettivo ultimo, quello che abbiamo firmato nel 2011, abbiamo allargato anche la sfera, qui non ci sono soltanto gli studi professionali delle professioni ordinistiche, chiamiamola, quindi avvocati, medici, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, eccetera, ma abbiamo anche le professioni, le nuove professioni, quelle che si sono affacciate, quindi dal designer all'ingegnere informatico al pedagogo, a tutte le professioni sanitarie nuove, e quindi un settore molto ampio che riguarda molteplici figure professionali. In più abbiamo anche le società strumentali, quindi società che svolgono servizi nell'ambito professionale, che possono applicare lo stesso il contratto di studi professionali, quindi una situazione di mercato molto in evoluzione, in aumento anche, diciamo, anche perché il settore studi professionali assorbe anche figure che magari vengono espulse, tra virgolette, diciamo, dal mercato del lavoro tradizionale, e che quindi si iniziano un'attività professionale in proprio. Ecco, quindi in questo senso assumono anche personale dipendente, ed è un settore che, nonostante il periodo di crisi, io voglio essere ottimista, fa segnalare appunto un aumento anche nel rapporto tra assunzioni e cessazioni. Molto bene, allora intanto poi analizzeremo anche tutti gli altri aspetti che riguardano questa categoria professionale, tra cui quello dell'attività della cassa di previdenza, perché è molto importante anche quando le donne appunto sono incentivate ad entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, perché hanno anche la garanzia di ottenere tutta una serie di servizi grazie al contratto che possono sottoscrivere. Poi ne parliamo. Gli incentivi della riforma Fornero, Alessandro Rotaporta. Abbiamo già detto più volte che la legge 92 del 2012, la riforma del mercato del lavoro, appunto entrata in vigore nel giugno dello scorso anno, in teoria è molto sensibile al tema della tutela delle donne, e proprio per questo motivo ha introdotto una serie di incentivi economici all'assunzione di queste. Non li vediamo ancora, non sono ancora operativi, mancano i provvedimenti attuativi, però diamo l'elenco appunto di quali sono questi incentivi per le aziende, poi magari cercheremo di capire anche l'azienda cosa deve fare appunto per poterne fruire. Allora, parliamo di due categorie, donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che siano residenti in determinate aree geografiche, che appunto dovranno essere individuate, come è stato detto, da un decreto ministeriale di cui si attende l'emanazione. Oppure l'altra categoria, sempre riferita alle donne, riguarda appunto personale femminile che sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. In questo caso qui non c'è un vincolo della residenza, però anche per questa fattispecie purtroppo ad oggi mancano le istruzioni operative da parte dell'INPS, e quindi il quadro, diciamo, che è sulla carta, come purtroppo va detto, non è solo questa agevolazione che è in stallo, ma ce ne sono anche altre che non riguardano soltanto le donne. Uno su tutti il voucher, per esempio, per il babysitting, che non parte. Abbiamo fatto una trasmissione per presentare questo strumento si 2 mesi fa, Alessandro. Esatto, si e ancora aspettiamo che arrivi. Sì, purtroppo la normativa italiana in materia di lavoro sconta molto spesso questa cascata di provvedimenti che è sempre necessaria per la piena attuazione. Quindi la norma quasi mai, soprattutto in tema di agevolazioni, disciplina in maniera compiuta la fattispecie, ma rimanda poi poi a successivi decreti attuativi che poi necessitano di ulteriori circolari, insomma il meccanismo. Tra l'altro la mancata dei provvedimenti attuativi sugli aspetti di cui parliamo questa mattina, questo ritardo è dovuto allo stallo politico, ma non credo, perché comunque gli uffici tecnici del governo la gestione corrente continuano a farla, quindi questo è un provvedimento già adottato, dovrebbe essere partito il decreto. Sconta purtroppo un'inerzia che è tipica dei nostri meccanismi, come dicevo, attuativi. Teniamo conto che ad esempio sui contratti di inserimento che riguardavano in particolar modo anche la categoria delle donne, che erano stipulabili fino al 31 dicembre 2012, in quanto poi sono stati abrogati con l'entrata in vigore di queste agevolazioni di cui parlavamo prima, anche questi hanno dovuto aspettare più di 3 anni perché il decreto ministeriale che fissa le aree appunto di incentivazione dei contratti stipulati dal 2009 al 2012 è stato emanato solo poche settimane fa, quindi anche qui ci fa già capire che ci sono stati 3 anni di vuoto in cui i datori di lavoro che magari hanno realizzato delle condotte potenzialmente incentivanti però hanno dovuto attendere poi parecchio tempo per poi vedersi riconoscere gli incentivi. Abbiamo detto tutto sulle assunzioni agevolate dal punto di vista contributivo e fiscale, manca ancora qualcosa? Sì, merita ancora menzionare gli sgravi IRAP. Sono previsti degli sgravi IRAP in misura variabile a seconda delle regioni in favore dell'assunzione a tempo indeterminato delle donne, che possono arrivare anche a cifre importanti, quindi intorno ai 15.000 euro, quindi c'è anche questo capitolo da tenere in considerazione. 800 24 00 24, il numero verde se volete intervenire appunto in diretta sul tema di questa mattina. Mi piacerebbe sentire, ma vedo che non abbiamo molto successo, qualche voce di qualche donna. Leggo però per tutti il commento di Daniela da Viareggio, che ci scrive: io vorrei tanto lavorare, ho 59 anni, non mi rispondono nemmeno, evidentemente continua insistentemente, fa bene Daniela a presentare le sue candidature, ho quasi finito la disoccupazione, è fine, a nessuno frega niente degli incentivi. Poi continua in un secondo commento Daniela: se sei donna e hai 59 anni, niente lavoro per te. È una realtà vera anche questa, questo vale peraltro per le donne così come per gli uomini intorno a queste qua, a questa età, che magari vengono appunto lasciati fuori dal mercato del lavoro, magari in posizioni anche piuttosto alte e con grande difficoltà, a volte anche con totale insuccesso appunto riescono a ricollocarsi. E allora 349-238-6666 se volete continuare anche a mandarci i vostri messaggi, possiamo mandare suggerimenti per chi è in viaggio, a tra poco. Eccoci ritrovati in diretta per l'ultima parte di Salva Danaio, dedicata questa mattina al lavoro, il nostro martedì del lavoro. Questa mattina parliamo di donne e lavoro perché gli ultimi dati Istat, che peraltro sono contestati da molti ascoltatori, poi chiaramente magari separandoli, analizzandoli nel dettaglio, è chiaro che si tratta pur sempre di una media e di conseguenza le realtà sul territorio sono estremamente differenziate. Magari sicuramente ci sono zone dove l'occupazione femminile si è intensificata in termini positivi, invece larghe zone appunto d'Italia dove chiaramente ancora la donna rimane a casa con grande difficoltà e non riesce a contribuire al salvadanaio della famiglia. Detto questo, però, il dato di febbraio c'è stato questo aumento dell'occupazione appunto femminile e noi stiamo cercando di capire questa mattina laddove c'è maggior richiesta anche da parte delle aziende che potrebbero teoricamente, se questi provvedimenti avessero un decreto attuativo appunto, beneficiare degli incentivi proposti dalla riforma del mercato del lavoro di Elsa Fornero. Incentivi di tipo contributivo appunto oltre che fiscale, ma non abbiamo ancora appunto i provvedimenti attuativi, quindi richiamiamo anche gli organi deputati a questo appunto l'attenzione su questo tema, se mai ci ascoltassero. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Sentiamo un uomo, Giuseppe da Brindisi. Mi sarebbe piaciuto di più sentire qualche voce femminile questa mattina, ma evidentemente hanno poca voglia di parlare le donne in radio su questo argomento. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Senta, la mia domanda riguarda i contratti di inserimento che prevedono assunzioni fino a 18 mesi e che riguardano fra le diverse categorie le donne, quindi l'argomento è pertinente, le donne che risiedono nelle aree del mezzogiorno. Sì. Questo, siccome sono delle assunzioni agevolate con una contribuzione ridotta che è paragonata a quella degli apprendisti, ma dipendono da finanziamenti dell'Unione Europea, volevo sapere, è possibile ancora assumere con questa formula? Sì, grazie Giuseppe, mi pare di sì, rotta porta, no, non è più possibile? No, perché i contratti di inserimento sono stati abrogati con perché sì, con lui faceva specifico riferimento al contratto di inserimento. I contratti di inserimento sono stati abrogati con effetto il 31 dicembre dello scorso anno, perché sono stati appunto sostituiti da quella formula di cui accennavo prima, che sta attendendo i decreti attuativi. Se sono state realizzate delle assunzioni con contratto di inserimento nel periodo 2009-2012, come accennavo in precedenza, è di poche settimane fa il comunicato stampa del Ministero del Lavoro che ha annunciato la firma del decreto ministeriale che individua le aree in cui appunto spettano le agevolazioni per questa tipologia di assunzioni. Quindi se l'assunzione è già avvenuta sì, altrimenti i contratti di inserimento no, c'è questa nuova formula della riforma. Non abbiamo più la vecchia modalità. Alessandro ci scrive a salvadanaio@radio24.it. Sono un giovane imprenditore, tralascio tutte le considerazioni sulla crisi. L'azienda che rappresento necessita di inserire una risorsa amministrativa in più, ma non avendo l'opportunità di sgravi fiscali siamo costretti a procrastinare questa assunzione. È anche vero che noto poca flessibilità dei dipendenti o futuri tali sulla questione fascia oraria per problematiche familiari. Quando ero bambino, ricorda Alessandro, ricordo perfettamente che tutte le donne di famiglia, mamma, nonna e zie, lavoravano e sono state capaci di far crescere ed essere presenti a tutti gli appuntamenti. E un tempo c'erano meno tutele e meno comodità. Evidentemente spirito organizzativo di sacrificio. Si è perso, Alessandro, la salutiamo. Questa sua considerazione aprirebbe, come dire, un'altra serie di puntate. Detto questo, Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, è anche vero che chiaramente oggi facciamo molta più fatica forse rispetto al passato, molte donne ci riescono perfettamente, ma per tutta una serie di problemi conciliare famiglia e lavoro è diventato veramente un atto acrobatico quotidiano per molte donne, e hanno bisogno appunto le donne per poter fare al meglio questa conciliazione anche di una serie di servizi che non tutti magari gli enti previdenziali sono in grado di garantire. La Cassa di Previdenza Sanitaria Integrativa dei Lavoratori degli Studi Professionali però ha messo in campo una serie di atti molto concreti, no, per favorire anche l'occupazione femminile. Sì, sicuramente, noi siamo intervenuti nel contratto quando abbiamo previsto il pagamento della cassa di assistenza sanitaria con un contributo di 14 euro a carico del datore di lavoro, abbiamo previsto delle coperture sanitarie integrative a favore della lavoratrice. Dato che abbiamo, come detto, il 90% della popolazione femminile, abbiamo cercato di fare delle polizze sanitarie su misura per le donne, diciamo, in particolare la gravidanza, tanto che anche nell'anno 2012 abbiamo pagato premi per circa 2.900.000 euro per gravidanza, fino a 1.000 euro, rimborsiamo fino a 1.000 euro di spese sanitarie sostenute appunto per la gravidanza, questo è importante. Poi abbiamo fatto degli interventi mirati per favorire, l'abbiamo chiamato pacchetto famiglia, perché mira a dare un sostegno economico, quindi in tutti gli effetti, per coloro i quali hanno figli, e quindi abbiamo interventi per l'asilo nido, noi diamo 600 euro per due annualità, per due anni di asilo nido, e 800 euro nel caso che i figli abbiano un handicap. Abbiamo anche un intervento per spese pediatriche, ma spese pediatriche per il primo anno 250 euro, intendiamo anche spese di pannolini, spese di latte artificiale che costa sempre tanto, oppure per spese mediche o di altra natura. Certo, servizi di assistenza che sicuramente nell'ambito previdenziale qualche anno fa neanche lontanamente ce li potevamo immaginare. Sì, esattamente, adesso questo ha avuto molto successo, diciamo nel senso successo, si fa per dire, ma comunque ci sono moltissimi che ricorrono appunto a questo rimborso, perché a tutti gli effetti si tratta di aumentare il proprio reddito, no? Sono spese che sono state sostenute dalle famiglie e quindi in questo caso il rimborso costituisce una maggiore disponibilità finanziaria che fa anche molto comodo. Poi abbiamo fatto anche degli interventi per la non autosufficienza, che per carità non riguarda strettamente le donne, ma però riguarda le famiglie quando in casa c'è un anziano non autosufficiente, oppure quando è presso una casa di riposo e deve pagare una retta, noi rimborsiamo 1.200 euro annuo per ciascuno del soggetto. È un problema che peraltro è destinato anche a, non dico esplodere, ma comunque ad aumentare costantemente nel nostro paese, quindi da monitorare con grande attenzione anche con questa tipologia di assistenza alle persone che si devono occupare anche delle persone anziane che hanno in casa. Allora, Valeria da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Buongiorno a voi. Allora, io telefonavo perché, come ho già anticipato, io ho 47 anni, sono disoccupata ho sempre lavorato nel mondo delle risorse umane e da che sono disoccupata mi è stato proposto un corso di formazione, di aggiornamento da Fondi Impresa e AFOL che ho frequentato e sto ultimando, con un focus particolare sull'aspetto di paghe e contributi, proprio perché era una delle materie competenze più richieste. Mi è stato detto nel corso di questo di questi incontri, di questa formazione, che è possibile avere poi contratti di apprendistato oppure di stage o tirocinio anche rivolte a persone un po' più senior, ovviamente, purché disoccupate o con mobilità non indennizzata come nel mio caso. Ora, io come altri colleghi che stiamo frequentando questo corso, in verità ci troviamo con tante porte sbarrate chiuse, perché proprio perché si parlava di studi professionali mi sono rivolta a voi, perché fatto bene. Quando si fa la domanda poi o attraverso annunci o attraverso conoscenze a studi professionali che in particolare occupano, impiegano queste persone, consulenza del lavoro, diritto del lavoro, paghe e contributi, ci si sente dire vabbè, ma sei fuori età o comunque non hai esperienza. Valeria, mi dispiace che lei è intervenuta adesso perché io fra 30 secondi devo chiudere la trasmissione, okay. Però la sua riflessione, che era bella, avrei voluto dedicarle tutta la puntata, merita un commento da parte di Gaetano Ostella, presidente di Confprofessioni, se vuole. Che cosa può fare Valeria, insomma, per con dignità mettersi sul mercato del lavoro, visto che si sta impegnando, studiando per tentare appunto di ricollocarsi nel miglior modo possibile? Sicuramente l'investimento in corsi di formazione è un investimento importante anche per acquisire nuovi elementi, nuove opportunità. 10 secondi, Stella, che devo chiudere. Sì, anche nell'ambito degli studi professionali noi abbiamo un fondo che si chiama Fondo Professioni, che appunto serve proprio a riqualificare e a dare nuove opportunità a chi si vuole spendere di nuovo sul mercato del lavoro. Quindi sicuramente è un inserimento, è un'opportunità valida e si potrà ottenere anche delle agevolazioni per poter grazie inserimento. Valeria, ci scriva, giriamo tutta la sua esperienza a Gaetano Stella, grazie ad Alessandro Rottaporta, ci sentiamo domani in diretta dal Vinitaly. A tutti buona giornata. Salva Danaio.